Nell'inferno della mia biblioteca, in uno degli angoli più riposti, sta una copia del Salotto proibito di Luigi Martino, che l'anima sua riposi in pace. Trattasi di volumetto piuttosto raro e peraltro non cercato da nessun tipo di collezionista, pubblicato a spese dell'autore medesimo per i tipi di Gastaldi Editore in Milano nel mese di agosto del 1965. In esso e solo in esso, è reperibile un carteggio fra Giuseppe Verdi e la Peppina Strepponi da una parte e tal Giovanni Zaffignani dall'altra. Non sono documenti né altamente compromettenti né tali da invertire il giudizio critico che del maestro è stato consacrato alla storia. In questo carteggio, infatti, si parla essenzialmente di stivaletti per l'inverno, di pelle morbide e molto grasse, di doppie suole e di lire. Si danno i casi che il maestro avesse freddo ai piedi e che quel tal Zaffignani fosse il suo calzolaio di fiducia. Il pregio di Salotto proibito è tutto qui. Svelare l'umano che è in tutti, ma attribuendolo a qualcuno che fra i tutti non ci sta, perché maestro, perché grand'uomo, perché Giuseppe Verdi. Nessuno consegnerebbe alle stampe e dunque allo scrupolo dei posteri il carteggio fra il sottoscritto e l'idraulico all'angolo a proposito di un rubinetto che ha continuato a perdere per 12 lunghi anni, ma qualcuno ha invece consegnato alle stampe e dunque allo scrupolo dei posteri le reiterate invocazioni dei coniugi Verdi all'abilità artigiana e alle moderate pretese economiche del proprio calzolaio. Solo chi è messo sugli altari ha di che preoccuparsi della forma pubblica a cui sono destinate le proprie banalità più intime. La settimana scorsa, per esempio, non so se avete fatto caso, è caduto Martelli. Da un'altezza troppo cospicua per non farsi male. È caduto Martelli e le cronache del regime ci hanno dato dentro. Certo, vabbè, si sarà fatta pur menzione della carriera politica, certo, saranno stati ricordati i capisaldi del suo pensiero, certo, saranno stati analizzati per filo e per segno i suoi ultimi comunicati alla stampa, certo, vabbè, ma al contempo non è stata persa l'occasione per informarci finalmente dei gravi problemi che affliggevano il suo camiciaio. Preso forse dall'emozione del momento, il camiciaio di Martelli ha tenuto a sottolineare che il suo cliente esigeva colletti particolarissimi. Per l'esattezza, colletti abbastanza morbidi da sembrare ondulati, ma abbastanza duri da non piegarsi del tutto, più che di camicie sembra di sentir disquisire intorno ad un programma politico. Con tutte le difficoltà del caso, perché chiunque, così stando le cose, può immaginare con quale senso di sollievo questo camiciaio deve aver appreso la notizia dell'irreparabile caduta di questo suo noiosissimo cliente. Anni or sono, proprio per fare un altro esempio, anni or sono, perché poi nemmeno poi tanti, per la precisione, nel dicembre del 1989, è caduto Ceausescu e con lui è caduto il regime rumeno. I giornali erano sì pieni zeppi di analisi politiche sul come, sul quando, sul domani, sul dopodomani, ma non ci hanno fatto mai mancare quelli che potremmo definire i supplementi di indagine più acuti e profondi sul perché più remoto. Prendiamo a caso, se torniamo a leggere il Corriere della Sera del 30 dicembre 1989, scopriamo che il conducator usava solo pigiami bianchissimi di tela di batista, pigiami di cui peraltro doveva avere il folle terrore di rimanere senza, visto che nella sua camera ne erano state trovati ben 20, e che e che, come se non bastasse, il conducatore indossava solo candidi slip in crepe, ordinati appositamente per lui alla ditta Rumpf, niente affatto rumena e nemmeno bulgara, né sovietica né tantomeno albanese, bensì svizzera. Non si sa se prima c'è stata la rivoluzione o prima la percezione dei pigiami e delle mutande del dittatore, ma quel che è certo è che da questi pigiami e da queste mutande una rivoluzione verrebbe ampiamente giustificata. Dunque allora c'è un meccanismo mentale piuttosto diffuso che alla caduta del potente accompagna una cronaca della sua intimità. E la cosa è sospetta. Sa dell'esito di curiosità morbose represse e finalmente liberate da un lato e sa, dall'altro, di una sorta di compensazione per estremi. Al grande si assegna al piccolo, insomma, perché dal contrasto ne sorgano valori univoci ed ineluttabili, perché non ci sia vacanza, perché si passi rapidamente alla liquidazione e si sostituisca. Ci si vendica, ma proprio per il modo si convalida la sudditanza come sistema. Ideologicamente è come passare dalla zuppa al pan bagnato, sempre della subordinazione a qualcosa che ci trascende si tratta.